E allora, 9 e 54 minuti primi, come detto, un piccolo supplemento di rassegna stampa, visto che in qualche modo insomma, su alcuni temi abbiamo la possibilità di contattare dei protagonisti diretti. Noi siamo al telefono con Alessandro di Infoxoa, fra le altre cose. Intanto, buongiorno Sandro, ci senti bene? Sì, buongiorno, buongiorno. Benissimo. E allora, abbiamo letto un paio di articoli sulla vicenda della proposta di legge per il reddito minimo garantito, una proposta di legge che insomma, ti ha visto fra i protagonisti sia del dibattito sia proprio praticamente insomma, della raccolta delle firme. Articoli insomma non molto vasti, però si è dato spazio a questa vicenda, per cui ti chiederemmo, come dire, di integrare un po' quel poco che abbiamo letto per cercare di capire com'è la situazione e anche magari per cercare di capire il quadro politico istituzionale che cosa ci offre su questo punto. In particolar modo il Fatto scriveva che ci sono almeno due forze che hanno parlato di reddito minimo. Uno è sicuramente il Movimento 5 Stelle, che però al momento non ha una proposta precisa sull'argomento. L'altro è il PD che, abbastanza fuori tempo massimo, a dire il vero, ha inserito questa proposta fra i suoi 8 punti di dibattito, sempre col Movimento 5 Stelle, però lì siamo ancora più sul fumoso, per cui ti chiederemmo così una rapidissima panoramica sia sulla proposta sia sulla situazione generale. Allora, io direi che facciamo un attimo un ulteriore passo indietro su come nasce la proposta. E tu hai citato Infoxoa, la rivista di cui del movimento a cui ho partecipato per lunghi 10 anni, che dal 2007 praticamente non pubblica più. Sì, ma per noi sarai sempre Alessandro di Infoxolo, sai. Sì. Allora, dal dibattito proposto anche da quella rivista, appunto intorno al tema del reddito, della precarietà, è nata poi un'associazione che si chiama Basic Income Network Italia, che fa parte di una rete mondiale che si chiama Basic Income Earth Network, cioè la rete per il reddito di base che c'è in tutto il mondo. E la nostra associazione è quella che in qualche modo rappresenta l'Italia intorno a questo dibattito. Un'associazione che ha visto nel giro di pochissimi anni fare più di 400 associati, e tra diversi nomi, diciamo, visto che ultimamente va molto questo nome, ci sono Rodotà, ci sono Luigi Ferraioli, ci sono Maria Rosaria Marella, ma ci sono anche tantissimi precari, disoccupati, donne e uomini che si sono occupati nel tempo appunto del tema del reddito garantito. In questa particolare situazione di cui appunto stiamo discutendo, l'associazione è stata una delle tantissime associazioni che ha partecipato, diciamo così, a questa campagna che è nata nel giugno 2012. La campagna, diciamo, di raccolta firme nata nel giugno 2012 nasce da un precedente, cioè dal fatto che diciamo, il giorno dell'insediamento di Monti, qualche settimana prima, ricorderete, il Sole 24 Ore fece quella prima pagina abbastanza storica dal titolo Fate presto, leggendo la crisi solo dal punto di vista dell'impresa. Noi una settimana dopo come associazione facemmo un ulteriore titolo, appunto un comunicato e delle iniziative, sempre dal titolo Fate presto, ma dal punto di vista del default sociale che si stava verificando nel nostro paese e non solo, e dallo spread di diritti che sostanzialmente il nostro paese ha anche relativamente a quelli che sono i diritti minimi nel resto d'Europa. Tra questi c'è appunto il reddito minimo garantito. Da quella lettera è nata un ulteriore dibattito che proprio sotto il periodo della riforma Fornero ha deciso in qualche modo di lanciare, visto che insomma l'opposizione alla riforma Fornero fu insomma in quel momento abbastanza debole, se vogliamo, da un punto di vista dell'agitazione complessiva, e appunto diciamo con la spada di Damocle di questo benedetto spread, noi invece intendevamo dare una risposta da un punto di vista nostro, e quindi in quel periodo lanciammo l'idea di costruire una sorta di coalizione trasversale per trasversale intendo di tutti quelli che in qualche modo sono occupati del tema del reddito nelle diverse accezioni, e lanciare appunto questa campagna di raccolta firme. Una cosa interessante è che nel giro di pochissimo tempo, e quindi siamo al giugno 2012, ben 170 associazioni hanno aderito a questa campagna, tenuto conto che quando parlo delle letture diciamo diverse del reddito minimo garantito, reddito di base, reddito di cittadinanza, eccetera, inseriamo al proprio interno tutto quel dibattito che va, diciamo così, dalla lettura del reddito come strumento di contrasto alle forme di precarizzazione, ma vi sono numerose altre associazioni in questo paese che invece lo leggono dal punto di vista di lotta alla povertà, oppure di autodeterminazione femminile della donna, oppure di reddito di esistenza come elemento, diciamo così, di libertà della scelta della persona, come diritto umano. Insomma, abbiamo scoperto che insomma, questo lo sapevamo, insomma, è uscito fuori, è emerso anche in questa campagna, che insomma a questo tema le letture sono diverse, ma anche tutte molto interessanti. E quindi diciamo l'aver lanciato la campagna insieme a queste altre tante associazioni ha dato vita, nel corso dei 6 mesi che appunto vanno da giugno a dicembre, a circa 250 iniziative in tutta Italia, almeno in 200 città. E a questa campagna si sono aggregati durante il periodo appunto della raccolta firme, sono partiti per primi i circoli territoriali, in particolare di Rifondazione Comunista ed alcuni circoli di Sinistra Ecologia e Libertà, che hanno aderito evidentemente a questa campagna e che in qualche modo hanno portato anche all'interno di quei partiti di sinistra più istituzionali il dibattito sul reddito. Arrivati appunto a giugno 2012, le 50.000 firme erano state superate, le iniziative sono state tantissime, tra cui una molto interessante, quella che ha visto in una settimana, che è stata intorno alla 15 ottobre, se non vado errato, la cosiddetta settimana per il reddito garantito, dove in tutta Italia in quella settimana si sono concentrate tantissime iniziative in tantissime città e lì sono state raccolte anche tantissime firme. Anche questa cosa andrebbe analizzata, è molto interessante, perché comunque è stato un momento in cui il tema del reddito è uscito fuori un po' dagli ambienti anche in cui noi stessi ci troviamo, diciamo forme più accademiche o dibattiti più politici o luoghi più politici e sociali dove il tema comunque ha avuto già degli approfondimenti. Ecco, la campagna ha portato questo tema un po' per strada, insomma, quindi nei mercati, fuori l'università, nelle strade, diciamo nei corsi, nelle vie e nelle piazze diciamo di diverse città e paesi d'Italia. In qualche modo ci si è confrontati anche con quello che era un po' diciamo il sentore sociale intorno a questo tema, e bisogna dire che non solo il raggiungimento delle oltre 50.000 firme, ma proprio l'atmosfera intorno a questa campagna è stata molto ricca e possiamo dire senza ombra di dubbio che dal punto di vista sociale il tema è molto più sentito di quanto noi stessi potevamo immaginare, nel senso che essendo una proposta molto pragmatica, in particolare sotto un periodo come questo, appunto con una fortissima crisi economica, è molto più comprensibile di quanto non fosse precedentemente. E quindi la campagna è arrivata, diciamo così, a chiusura nel dicembre 2012 con queste oltre 50.000 firme, ma il problema, che non era un problema di piccolo, non era un piccolo problema, erano state sciolte le Camere, per cui il 22 dicembre, per cui sostanzialmente le firme non avevano una controparte, non avevamo una controparte a cui consegnare le firme. E quindi c'è stata tutta la campagna elettorale, c'è stata tutta la parte dedicata appunto alla presidenza delle Camere, via discorrendo, insomma siamo arrivati praticamente a ieri con un comunicato poi che in qualche modo ha fatto il giro d'Italia, che era appunto questo stanchi di aspettare, perché non possiamo appunto più aspettare per consegnare queste 50.000 firme, che ci sia elezione del Presidente della Repubblica, poi magari scioglie le Camere, poi arriva a consultazioni, poi si va a elezioni, cioè insomma rischiavamo appunto di buttare questa forte mobilitazione che c'è stata diciamo nei 6 mesi dello scorso anno. E quindi ieri abbiamo deciso appunto di portarle comunque in Parlamento. Facendo questo abbiamo chiesto che una serie di parlamentari, cioè quelli più sensibili al tema, scendessero giù diciamo in piazza di Montecitorio e si avviasse, vista la mancanza delle diciamo strutture formali, parlo in questo caso delle commissioni, vista la mancanza di strutture formali in cui poter discutere di questo tema, abbiamo chiesto appunto che scendessero affinché ci incontrassero e decidessero lì in qualche modo una via per far sì che questo dibattito e soprattutto la definizione di un disegno di legge prenda corpo. Tant'è che sono scesi, devo dire, almeno una quarantina di parlamentari e hanno sostanzialmente fatto una sorta di riunione lì fra loro in cui hanno definito una, hanno scadenzato una, immagino, una serie di riunioni per capire quale può essere appunto non solo la proposta o un disegno di legge che accelererebbe a questo punto anche diciamo così il leader burocratico che hanno di solito le petizioni popolari che spesso e volentieri purtroppo finiscono nel dimenticatoio. E quindi immagino e credo, almeno è stato l'impegno preso ieri, che si daranno una sorta di calendarizzazione in cui si discuterà di questo tema. E altrettanto abbiamo chiesto alla Presidente della Camera, alla Boldrini, di poterci incontrare affinché anche lei, nelle sue competenze, nei suoi poteri istituzionali, in qualche modo favorisse questo, questo dibattito. Ecco, questa è stata un po' tutta la storia fino a ieri pomeriggio. E relativamente invece alla domanda che facevi tu sulle diverse proposte, sì, al momento non ce ne sono, ce n'è una del Partito Democratico che ricorda molto le forme di reddito minimo di inserimento che l'Italia ha già vissuto in anni precedenti in maniera sperimentale, a spot, sporadica, con pochissimi finanziamenti, ma che sostanzialmente non ha determinato una riforma strutturale rispetto al tema del welfare, al tema del reddito. E poi non ve ne sono altre al momento di proposte, diciamo, di disegni di legge. C'è stato sì il dibattito sotto la campagna elettorale in cui chi più chi meno ne ha parlato, ma di fatto anche noi che in qualche modo abbiamo questa situazione, che è proprio una situazione di scopo, cioè solo esclusivamente legata al tema del reddito, non abbiamo ben compreso quali sono le proposte, perché ad esempio la proposta di Grillo, così definita reddito di cittadinanza, in verità somiglia più a un sussidio di disoccupazione, oltretutto molto calmierato, perché lui si rifà, dice di rifarsi ai modelli europei, ma in Europa il sussidio di occupazione è una cosa slegata al reddito minimo garantito, cioè se si perde il lavoro si ha il sussidio di occupazione, se non si trova più il lavoro e si diciamo, termina il periodo del sussidio di occupazione si entra nel regime di reddito minimo garantito, quindi sono due misure completamente diverse, quindi c'è un po' di confusione in merito ai termini e anche però in merito alle finalità a questo punto di quello che si intende fare, quindi stiamo a vedere. Noi abbiamo dato come associazione appunto che in qualche modo si occupa di questo tema e di esperti che si occupano di questo tema tutta la disponibilità per scendere anche un po' in profondità e capire per chi ne ha voglia di quali possono essere le eventuali misure o comunque dare anche diciamo così una lettura critica di quelle che sono le misure a carattere europeo, perché visto che qualche giorno fa è morta la Thatcher, diciamo che il thatcherismo e la politica neoliberista sostanzialmente negli ultimi 20 anni, direi anche 30, portato un attacco ferocissimo verso le forme di politiche sociali, di welfare e soprattutto contro il reddito minimo garantito un po' in tutta Europa, quindi parlare d'Europa ha un senso perché dimostra da alcuni punti di vista la fattibilità di una misura come questa, ma dall'altro punto di vista bisogna comprendere bene che queste forme diciamo di reddito minimo garantito europee hanno subito un forte e violento attacco nel corso degli ultimi 20 anni, quindi bisogna anche saperle leggere e criticare dal punto di vista appunto del diritto, di un diritto di base come quello appunto del reddito. Quindi al momento non vi sono proposte estremamente chiare anche rispetto a quali sono i criteri, i beneficiari e via discorrendo. Quindi insomma noi ci auguriamo che almeno si apra un dibattito vero che porti poi a un disegno di legge vero e che venga approvato realmente, perché appunto la condizione sociale di questo paese insomma è abbastanza evidente, grave, insomma drammatico. Benissimo, senti, noi ti ringraziamo per aver integrato un po' le nostre letture. Prima di chiudere e poi magari darci appuntamento per vedere che cosa sarà successo di questa proposta, una ultima cosa volevamo chiederti. Visto tutte le assemblee, gli incontri che ci sono stati, diciamo, al di là del personale politico, per quella che magari è proprio la tua esperienza diretta, questa proposta, non voglio dire sull'uomo della strada, ecco, però insomma sulla persona media che incontravate, a cui presentavate questo tipo di progetto, ecco, in che maniera viene visto, come ci si pone di fronte a una prospettiva simile? Guarda, questa è purtroppo, dal mio punto di vista, è stato un po' una mancanza complessiva nel non fare un'inchiesta di carattere sociale e politico, nel senso siamo stati più attenti alla costruzione dell'iniziativa che effettivamente avremmo potuto effettivamente sfruttare questa occasione della campagna per fare anche una forte e grande inchiesta sociale. Però sicuramente le pulsioni, le sensazioni, i discorsi ai banchetti li abbiamo sentiti. Ti posso riassumere a questa domanda una frase che ci ha detto una signora piuttosto anziana nel quartiere di Casal Bruciato, che lei firmava questa petizione di usare legge di iniziativa popolare perché sostanzialmente il processo, diciamo, di redistributivo intrafamiliare, cioè i soldi di nonna che vanno al figlio e che poi finiscono al nipote, sono finiti. La nonna, quindi lei che firmava, non poteva lasciare casa perché viveva in una casa popolare, quindi con lei sostanzialmente finivano i risparmi. Il figlio era cassa integrato e il nipote è un precario, quindi il nipote precario non può sostenere il padre cassa integrato e la nonna pensionata. Ecco, questo dimostra proprio un processo di caduta verticale anche in quella che è stata un po', diciamo, il fulcro di questo paese, cioè il welfare familistico, cioè l'intrafamiliarità della redistribuzione del reddito. Questa roba è praticamente finita, l'attacco ai risparmi sta quasi terminando, infatti siamo alla frutta, infatti siamo al rischio di povertà del 29,9% della popolazione italiana. E questa donna a Casal Bruciato diceva: io firmo per lasciare in eredità, visto che non posso lasciare in eredità nulla, un nuovo diritto. Ecco, questo secondo me è un po', diciamo, per raccontare un po' tutto quello che la campagna ha raccolto, queste 50 e oltre 1000 firme, e hanno raccolto un po' un'idea, ora uso un termine che a me non piace molto, ma un po' un'idea di speranza, nel senso un po' un'idea di immaginare che qualcosa domani potesse andare meglio, ecco. E devo dire che le firme, la raccolta firme, i firmatari sono stati veramente hanno avuto veramente una partecipazione di carattere trasversale dal punto di vista generazionale. E noi ci aspettavamo moltissimi giovani, noi ci abbiamo trovato tantissimi anziani, e ci aspettavamo altre figure sociali, abbiamo visto per esempio una fortissima presenza delle donne, e quindi effettivamente corrisponde a ciò che sta accadendo, e quindi diciamo che la sensazione prima è che, appunto, rispetto a quello che era gli anni scorsi, il tema del reddito minimo garantito, del reddito garantito, che era un tema molto, diciamo, politico, che viveva dentro alcuni ambiti, spesso e volentieri, e spesso anche malvolentieri, facendo, diciamo, a braccio di ferro fra redditisti e lavoristi, no? Per cui tutto un dibattito molto dentro un mondo della sinistra che discuteva di questo tema, questa campagna mi ha dimostrato che fuori, diciamo così, da questo mondo la percezione è molto più viva. D'altronde faccio un'altra riflessione: nel Lazio c'è stata questa, diciamo, breve sperimentazione che poi la Polverini ha praticamente definanziato, del reddito minimo garantito, la legge 4 2009. La Regione Lazio si aspettava 40.000, diciamo, richiedenti, ne sono arrivati 170.000, cioè 135.000, cioè 70.000 persone in più di quelle iscritte ai centri per l'impiego e aventi diritto, cioè 70.000 persone invisibili, che però hanno fatto domanda. E che avevano tutti i diritti per farlo, però. Dimmi. Che avevano tutti i diritti. Scusami? Che stavano dentro quei criteri, cioè non è... Certo, certo, non solo stavano dentro quei criteri, ma tenuto conto che la Regione Lazio ha fatto il bando ad agosto, quindi se l'avesse fatto a settembre forse erano anche qualcosa di più. quindi non solo avevano i diritti, stavano nei criteri, ma secondo me sono anche non tutti, quindi. Però la cosa interessante è che pur non essendo 70.000 persone, parliamo di un numero molto alto, neanche iscritti al centro dell'impiego, hanno però compreso perfettamente la proposta del reddito minimo garantito, perché era qualcosa che andava inciso sulla quotidianità, e si sono andati a iscrivere e hanno fatto domanda. Poi 10.000 di questi solamente hanno avuto il beneficio, perché la regione praticamente mise sul piatto una somma irrisoria, cioè 30 milioni di euro, però diciamo così, come se vogliamo leggere dal punto di vista dell'analisi sociale, questa cosa ha avuto un'esplosione, cioè l'accettazione di un diritto come questo, diciamo così, da un punto di vista sociale è dato. Terza questione, terza riflessione è che purtroppo veramente l'Italia è un paese molto lontano dall'Europa, Quando noi ci trovavamo a fare iniziative pubbliche in università, piuttosto che nelle piazze, siamo andati a Barletta a presentare un video sul modello belga e olandese, davanti, nella periferia di Barletta, davanti a una piazza, davanti a 500 persone, c'era un silenzio di tomba perché non riuscivano a capire se stavamo trasmettendo un video burla o meno, perché le immagini di questo video facevano vedere una ragazza diciottenne che usciva di casa, grazie al reddito minimo garantito, andava a vivere da sola per poter proseguire i suoi studi, un immigrato che è arrivato clandestino, si occupava, grazie al reddito minimo garantito, aveva trovato un lavoro, quindi aveva avuto il tempo per formarsi e trovare un lavoro, si occupava dei senza casa, un clandestino di 5 anni si occupava dei senza casa, quindi storie che in qualche modo, certo, non disegnano un mondo felice, è evidente, non stiamo parlando di questo, però pongono alcuni temi, diciamo, di contraddizione relativamente al fatto che invece ci trovavamo in una periferia del sud dell'Italia dove veramente l'unico appiglio era il lavoro nero sottopagato, cioè ecco appunto, quindi noi abbiamo anche un problema di conoscenza di quello che in qualche modo nei paesi, diciamo, dei nostri concittadini europei spesso accade, malgrado, come dicevo prima, il periodo thatcheriano abbia massacrato queste forme diciamo di sostegno al reddito, ecco, malgrado ciò, diciamo, siamo molto molto lontani, tenuto conto poi che appunto l'Europa, la famosa Europa ce lo chiede dal 92, che appunto l'Italia implementi una misura di sostegno al reddito come appunto il reddito minimo garantito, quindi diciamo da un punto di vista complessivo c'è anche un elemento veramente di mancanza di conoscenza di questo tema, noi dopo 4 anni di associazione continuiamo a fare una sorta di iniziativa di carattere didattico, siamo diventati un po' un disco che ripete alcune questioni, perché però ogni volta ci troviamo costretti a ripetere, perché appunto la platea che magari incontriamo veramente è totale, diciamo, non conosce effettivamente quello che succede sulla frontiera, quindi utilizziamo anche questa, questo spazio, diciamo così, dell'oltre frontiera per determinare un elemento che lega la necessità al termine della possibilità, quindi la necessità di avere un nuovo diritto e la possibilità, in qualche modo questo diritto è stato sperimentato nel corso degli anni in molti paesi europei e a noi interessa il momento più alto di questa sperimentazione, quando appunto questo diritto era un diritto forte, insomma, di carattere universale, cioè che poneva al centro la dignità della persona. Ecco, poi ci sono state le politiche welfaristiche, delle svolte a destra rispetto al welfare, le privatizzazioni eccetera, e queste dobbiamo essere in grado di criticarle, ma partendo dal punto di vista della difesa, diciamo così, di ciò che è stato in alcuni momenti nel continente europeo un modello sociale, insomma, altamente inclusivo. Va benissimo Sandro, ti ringraziamo anche, cioè, per la presenza all'ultimo minuto e niente, magari ci aggiorneremo nei prossimi giorni per vedere un po' che fine farà questo progetto e poi anche auspicando che, come dire, il dibattito su questi temi ritorni un pochino in primo piano, ecco. Sì, vi lascio con un'ultima, diciamo, informazione, perché è partita da circa un mese, se non vado errato, perché adesso c'è una formula che si chiama ICE in Europa, sarebbe l'iniziativa dei cittadini europei. Io capisco che sto parlando di tutte formule molto, diciamo, di raccolte firme, però gli strumenti uno utilizza anche spesso volentieri quelli che ha, insomma, per poter andare un po' avanti. Cioè, questa legge si chiama iniziativa dei cittadini europei, cioè è un'iniziativa che prevede il fatto che sette stati membri dell'Unione Europea possano mettersi insieme, anche sette cittadini, o sette associazioni, e possono fare delle proposte all'Europa che arrivino a normative quadro, cioè a direttive quadro. Le direttive, voi sapete, che obbligano gli stati membri a fare alcune cose. È partita da circa un mese una raccolta firme, una ICE, cioè un'iniziativa dei cittadini europei che coinvolge circa 15 paesi, proprio sul reddito di base, questa volta incondizionato, cioè che in particolare è una proposta che viene da molte associazioni dei paesi del nord Europa, che intende superare le forme di welfare che si sono introdotte appunto nel corso degli ultimi 20 anni, rindividuando sostanzialmente un diritto basico come appunto il tema del reddito, soprattutto un diritto di carattere economico nell'era appunto della finanziarizzazione, quindi da un diritto sociale a un diritto economico, e come diritto, diciamo così, di dignità umana, insomma, come diritto, come uno di quei diritti della carta, diciamo, del 48. Quindi da questa ulteriore notizia, perché questa cosa molto interessante sta attraversando e ha attraversato molti movimenti, compreso il movimento dell'indignato spagnolo, che infatti vi partecipa, e che in qualche modo sta dando una nuova linfa anche, diciamo, al superamento di quelle che sono le forme più di carattere welfaristico, se vogliamo, e pone il tema appunto della redistribuzione di ricchezza. Ecco, è partita questa campagna, dovranno essere raccolte 1 milione di firme. La proposta che si farà, diciamo, alle istituzioni sovranazionali sostanzialmente è quella di dire individuate dei percorsi affinché questo diritto venga al più presto inserito come uno di quei diritti fondamentali, diciamo, destinato ai residenti dell'Unione Europea. Ecco, questa cosa è molto interessante perché apre uno spazio transnazionale al quale stanno partecipando moltissime realtà sociali, associative, reti, ma anche partiti tipo il Partito Pirata tedesco o altri, insomma. Ecco, quindi è molto interessante anche questo altro aspetto che va tenuto d'occhio. Va benissimo, ti ringraziamo ancora, allora in bocca al lupo per tutto e a risentirci a presto. Grazie a voi. Un abbraccio, voi. Ciao. Ciao, a presto, ciao.